Al-Qadr, il destino. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. In vero lo abbiamo fatto scendere nella notte del destino. Wama adraka ma laylatul qadr. E chi potrà farti comprendere cos'è la notte del destino? Laylatul qadr khayrun min alf shahr. La notte del destino è migliore di mille mesi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. In essa discendono gli angeli e lo spirito, con il permesso del loro Signore, per fissare ogni decreto. Salamun hiya hatta matla'il fajr. È pace fino al levarsi dell'alba.